se combatte, se bocce a otto, lo bocce poi bocce a seconda dello altro, lo bocce a otto a dire, lo bruci. Come siamo quello che vuoi? Sappiamo la porta anticchiata, prima per le cose del che. Cioè io ti posso assicurare che non altro, mai bruciato un macchino, mai. E le presenti di uno anche non la c'è mai stata, che io attesi di e notti, a chi era voi la notte e la mi sempre a gara in giro per fare collegamenti eccetera eccetera, ma da un dito va a vedere tutti altri notizie, come ti va vivo ori ero sempre attaccato e comportante delle petti chicciata, non a passaggi gocci, discussioni o musica, o ballo, risi, insomma che dire, io non ci ho mai fatto quello un barattino, però i petti non ci ho mai toccato, non l'ho mai toccato, sempre che tu paghi tu via l'ho trattato, punto e basta. Tutti gli altri che l'hanno toccato non mi sono arrivati, non hanno fatto carriera assai, e beh, te lo posso assicurare. Oggi, con queste modifiche, queste cose che fate, se tu mi dici, poi già ci vedi i canali, mi salvi. Però anche, guarda, ce l'ho sopra la macchina, anche altri dici, io la macchina mia l'ho messo 30 cavalli, ma tu sei sicuro che tu hai cavalli? Ma assolutamente no, si fascia, dite, no, te lo dico io che si fascia. A me che ha studiato il motore, non è stupido, mi sono dissuto in giro, i cappellicchi non attesi, e dici, studiaggiali, tanto esci, ho trovato, poi c'è la 4 e mezza, capito? Perché in modo che tu non lo bruci, quello si scalda, riesce a dissipare il calore e i componenti non rimasta creccia. Quando tu tocchi questi cosi, a lui lo scaldi dentro e tutte queste cose che loro allineano, che fanno, andano in gigante a passeggiare. E così, a meno che non sia un banchino che proprio è nato predisposto a chissà cosa, ma se no, no. Lo gioco, ma quando vi fa delle modifiche se c'è apparecchi di giamba li vuole rifinare, come c'è la macchina, se deve spingere un po' di più li deve giamba la turbina, se vuoi che andiamo a pagare il debito lo motore, se no non vi può andare, se no li vuoi farci tutto. Sì, però mi capisci cosa ti voglio dire, si scalda, cioè se tu da 4 watt o da 4 e mezzo, quindi che date in altro emologato, lo bocci a 10, a 12 watt. Io sono pronto, come ti noi li vediamo, uno riesce con i watt normali e uno con i watt toccati, chi lo ricassi, per forza, non ce la fa, perché chissà, se tu avvai di tipo, cosa ti posso dire, tipo Jackson, Easy, tutti quanti, pure Lincoln, non è che fanno il dissipatore di calore da ridere, veramente ma che sono motivo di inchiri, anche se no casi brucia, non vedi niente da là, su, sì, so, cioè quando si va oltre quella roba lì, lo scaldi, e se lui non riesce a pigliarlo, che fugoso, la logica è che si brucia. Beh, fai brutta, è come il 87 che va giù io, arrivi a 27 watt, proprio da strumento, no, non è una balla, no. Però, cosa è successo? Gli hanno cambiato i finali, però il dispattore va da dentro, a confronto con il suo omologato. Però li tiene perché sono stati sostituiti quelli, quindi a vendere un finale più umano non vi sono problemi, compreso. Certamente che sì, però c'è il dissipatore, capito? Con il dissipatore fai già bene. Sì, che verrà. Ecco, se tu ne rimuovi il dissipatore dalla rete, è lui casi, è obbligato. Scalda un po' di più, scalda, cioè, il dissipatore. No, che già vi dai, che sa parecchio. Oh, 27 watt, ma una radio del genere non è buccia di gioco a me. Sì, è un bel, so, abbastanza. Sono un bel, sì. Chiaro, tutte le cose hanno le loro misure, come le macchine, la stessa cosa. Tu non puoi caricare tutto quando non lo sopporta, cioè è malleduto. La macchina te la danno a... mettiamo il caso, dopo la macchina, motori, 4.000 lire, 4.000 che cosa? Tu vai di più, mi fai tutto che la gente ha detto, mi gira di più, ma non dura però, non dura, lo massacresi, è bello che a voi si brecia, si va, ma lo massacresi, partini su, beh, di sicurezza, farlo viaggiare in anni, e lo devi dire come te. Io non ho mai visto un motore toccato di centralina che ha durato e ha fatto una marea di chilometri, assolutamente no. Ma poi c'è anche una tolleranza, se di buone cosa ne so, chi si dico cavate in più magari non rifate nulla, se come già punini i denti, 15, 20, già come se già faccia tutto, cioè se vendi danno. Certamente che sì, che so ti voglio dire, cioè quasi tutti, però se tu andi e fa vedi con un gatto calicentrino, dici guarda ti metto 20 cavalli, ti metto 25 cavalli, beh magari che lo fate l'incomodo, e le presenti che va a casa fa variare. I vedi cavalli ci hanno su un altro sistema, tutto, giamba, non vestore, collettore, turbina, carico, tutto altra cosa. E tu avvado quei passo dalla centralina? No. Se me lo porti alla rottura, alla disperazione, lo vai là, la fine è chita però. C'è da fare. A meno che uno proprio non andi a piano, tranquillo, bene, di frutta solo la coppia che va, ci sta, va bene. Ma se ti vuole a tirare, appena tirato, tiri, sgomme, vai, ti fai, eccetera, eccetera, lo vai a rosso. Già un lupo, già. Vai, non si vede. Non va bene, no. Perché è poca cosa, mandarle appena più. Ma se potete, mi allegro, il motore andrà bene. Ma se lo vuoi fare troppo allegro non andrà più bene, però un po' lo crepi, ma a parte tutto. Le cose così, questi apparecchi qua vanno bene tu quando li tocchi, appena tu tieni presente che pure lo 440, pure lo 850, 950, che si, mi pare che si possa li tocca e arrivi, forse pure 940. Mi pare che esci intorno allora lo 950 mi hanno detto che l'hanno fatto 220 230 watt, ma io sono quello paese che non ho toccato e ho lagato così come te, e non si hanno fatto questi grandi altri cose, non lo so quanto dura, boh. Io non so quest'anno mai d'accordo, cioè io vi raggio, se ti vuoi la verità ti posso mandare una foto, ma sai quanto esci con Guido? Privata, appena mi raggiù senza papillare, tu qui ci regolato a desi, anzi tre private, rimane per te rimane mi dava i denti, ho detto che se va bene come Emiliano che non va bene, tre private mi raggiù, tanto la briga non va bene, si aumentano un poco, quindi alla fine lo sta così, poi c'è appunto tanta rimane a papillare, ma quello bello tocca, poi... Sì, la misura è quello, dai 10 e 15 watt, non di più, perché se facci seminare fa un bel di danno, vai, ma danno però, allora so tocche, so. Sì, diventa tutto un problema la buona, infatti io sopra che cose, no, le trattori così, no, poco, io sai cosa dico sempre, no? Vabbè, basta che mi intendi e poi io resto cosa me ne frega. Basta che mi intendi, se mi dici ti sei già sì, passa, andava e lascia che tu sì. Beh, appunto, poi quando ti va a mentare che andando in FM ti danno un po' di meno. A chi te c'è l'acqua dell'aria, ma non te c'è. E non andava bene. Sì. No, ma bisogna pure accontentarsi, no? Guarda, allora, se uno può arrivare a tutti gli altri luoghi, beh, devi avere una buona accogliatura con l'antenna, se fa una buona accogliatura con l'antenna, ed è tra i tipi che riesci a sì, non dico perfetta, ma a una volta battendo dell'accogliatura della cosa, andi alla grande, bene, perché con la radio arrivi dappertutto, non la vanno arrivi lo segnale, mai arrivi la radio però. Beh, già lo credo. Vabbè, dalla mia a me, posso attaccare altrimenti, pensamento va. Posso vedere pubblico muro, uno di stazionaria e non faccio problemi, senza metà va, non mi ha mai tradito. Sì, no, io mi va, pure io se va bene dentro con chiuso, uno vaggio uno yoga, mi pare forse uno appena un pelo, forse da un euro, ma non penso che arriviamo a un euro. Il l'uno è l'uguaranta, non mi in ghiglio, no, in linea di massima, cioè poi ci sono a posto, voglio, a meno che il mi ha toccato pure il cacciato degli strumenti e mi ha imbarato a chi so provare sempre degli strumenti dell'apparecchio, però con l'altro va giù un euro, devo sì, un 3 watt, a chi lo tengo sempre, quando va vedo pure, lo tengo sempre, deve essere UR, lo tengo in ghiri, a chi l'abbaglio sempre, dai, mettiamo di voi, sì, posso dire che magari con il filo una cosa e lo va a russo. Può capitare. E bisogna guardare sempre, soprattutto questi apparecchi quando moduli, i picchi di modulazione, bisogna guardare. Tu quando dai di chi se vai a canomalia te lo segna subito, allora molli tutto. Sì, ma io pure con chi sta, a meno che non mi chiediamo un controllo, se tu mi dai un controllo, pongo il bacino sopra e ciccia, ma se no tengo se prendi per se vuoi, che mi interessa più a bagliare così me che vorrei. Sì. Ma io l'ho attaccato danza ora, mi avessi detto che ha fatto. Ha giocato, capo, non credia che continuassi così bene, con un ZG 203 come strumento, ma funziona bene, davvero bene, me. Ha giocato, riprovato, ha giocato la comparazione con un altro, funziona bene, beh. Sono contento di questo strumento. Sì, ma la bella che i ZG sono sempre andati bene. E alcuni non sono andati assai bene, alcuni. Però questo io ero un pochetto scettico. L'ho comprato, l'ho provato. Aspetta, giusto, c'è cosa a misurare. Sei un poco particolare rispetto agli altri, a chi deve andare. Un divisore flat, bisogna andare tutto a fondo scala, pure SVR. Ti prescegli, cioè devi sceglierti quanta motetta se te la tendi, scala 10, 100 kW, come la tendi se te la tendi poca potenza, ma SVR lo buona a fondo scala, lo regoli bene, tiri e ti va di misura sia i watt che la stazionaria. È una cazzata, eh. Buono. No, io no, ti ripeto, non lascio, è una cosa che non lascio mai a uso, né mani né minori, no. La cosa che magari, ti ripeto, tenevo di più era sempre il microfono, l'antenna, anche cose così. Poi, giustamente, sì, fai collegamenti in volo, che sei lontano, che va un discorso, non va a arrivare, non ti intende, eccetera, eccetera, fa comodo, perché se tu accorci bandi in grida, un divisore, radioamatore eccetera, sono sicuramente ai matti di che va a 3-detto, che va a 4-detto, che va di più, sono sempre in gara, sempre in competizione, addirittura rimane, va vedendo, cazzo, qui l'ha collegato in Giappone, cazzo, non manca, cioè per collegare anche cose bisogna che tu ci vuoi un chilo, quanto buio devi avere antenna, devi avere direttiva, e poi non basta, cosa cazzo, devi sempre raccogliato per il bosso, eccetera, eccetera. Quindi no, è di buda in chita in oga, arrivi in oga a bomba così, un segnale a chi la disegna che arrivi in buda un segnale un bel foci, chissà se buda viene sempre dai mati, Sicuramente sì. Non vedrà mai avuto l'orosmetro. L'orosmetro? Come la misurare, come la misura stazionare tu? Sempre con l'apparecchio o come misure? Non vedrà l'orosmetro? No, sempre un apparecchio le misuro. Allora io me l'ho confonato perché l'altro che va via, la gran maglia, però è preciso, a tamizzare avere antenne. Lascio che va, giù in Intec di 10 minorenni, me l'aveva dato, una persona me l'aveva dato, aveva giù un bel danno, tanto funzionava. Allora giù pigliato un ghiccio, che già mi soddisfa. Sì, si trattava, sai, si trattavano un bel mi prima, tutti quanti che ti cosi, a voglia che si trattavano, in linea di massima, rago, una volta che tutto quanto a posto, lascio lo coso dell'apparecchio, dai, lo muovo in Givi SVR e quindi mi dà bisù da in Givi, se c'è qualche cosa che non anda, se da voi devo controllare un coso, lo tocco la lutacina e lo muovo in Givi, da normale, dai. Capa, no, non lo tengo attaccato, c'è qualche voce, sì, non lo tengo attaccato, tanto solo che non mangio di tanto, mi attacco a vedere come ci sia tutto a posto la situazione. Stazionaria. Perché prima di iniziare a modulare io me lo controllo sempre, non si sa mai che succede a che cosa, che tra i venti, i bioggi, cose, sai, non si sa mai se c'è a che cosa mi dia problemi, ma ho visto che tutto a posto. Oh, poi tutti quanti di cose, buoni, io ripeto, quando mi tieni a parecchie di cose, è bello avere tutti quanti, tutta la stessa dura, dai, sia a casa che in macchina. Una volta quasi tutti li ricevivi, la vieni sempre appresso, lo rosmetro per evitare qualsiasi inconveniente, anzi un bel niente di vici la civici che veramente pure sempre attaccato direttamente, perché io mi dico ma cosa non attacca? No, lo so, ciao, tengo sempre attaccato. Un bel fatto di burro la fazione in vista, deve sempre attaccato. Ma una volta che sia a posto no ve ne bisogna, ti ripeto, io faccio un po' con questa vista, quando rimango ore, va bene, no? Di lasciarlo così, sempre luce, abbaito, sempre a posto, e andava così. Ma è giusto, chi voleva entrare avanti? E la buonasera a tutti, doppio Roma. E anche io ce l'ho così, sempre attaccato. C'ho il rosmetro, il wattmetro, sempre attaccato, così se succede qualcosa, c'è qualcuno corto, non te ne accorgi, se non c'hai il rosmetro attaccato. Ehi, ciao, sì, no, infatti io dico, lo tengo così, ma no a chi uno è proprio fissato, a chi è. No, è un'abitudine, una cosa, tanto non me ne frega niente, noi oggi si sta sempre attaccato ai transmitter. Quindi magari lo lascio io ogni tanto, se la conosci e la baito, è sempre tranquillo. E io poi ce l'ho anche nella stazione base che ho comprato, l'ultima, c'ho proprio il rosmetro, quando tu clicchi il pulsante senza regolare, senza nulla ti segna le stazionali. Sì, come se li hanno gli apparecchi professionali, ci giri un dash, mi dà e te lo segna diretto. Sì, no, sono attacco tutto direttamente. Il mio è così, come tu premi la pulsante ti segna la stazionale, c'ha il modulometro e segnale che devi dare. Ah, che apparecchio è? Non ho mai capitato questa cosa. Il voice? Boh, no, non l'ho mai visto. Due. È un vintage, dai, però è molto bello. Ma grande, veicolare? No, stazione base. Davvero? Cioè, no, allora proprio non mi è mai capitato. È un bel apparecchio. Io l'ho visto, me lo sono subito ordinato, perché mi piace molto. Lo stavo cercando, come l'ho visto me l'ho ordinato. E dove lo trovo a vederlo, a guardarlo? Basta che metti il Royce in stazione base e te lo dà. Provo a mandarlo a vedere come. No, non l'ho mai visto. Cioè, è sempre usato quelli che conosciamo, dai. Vabbè, questo qui è un apparecchio, non lo fanno qua in Italia. Si scrive Royce, Royce con la Y, CE, capito? Esce lui di cosa di fare. Quanto costa quello? Non ne ha di prezzo. Questo qui c'è chi lo vende 400, c'è chi lo vende 200, c'è chi lo vende, diciamo, 150, dipende. Capito. È come il Galaxy te lo vendo 200, 400, 500, dipende dalle persone. Sì, c'è stato un periodo anche 600 euro mi ci avevano i Galaxy. L'hai già visto i Galaxy Vento a... No, si Vento, infatti gli stucchiati esagerati, il cavolo, cioè sia le avvie, più o meno costava qualcuno usi. E poi 500, 400, eccetera, eccetera, ma no, il Xenia non si può comprare proprio. Poi il prezzo suo, quando poi più lo paghi, quando poi più lo paghi, è 2,50, cosa cazzo, cioè se andi oltre chi sa bucciata ti viene una HF o troppi, ma fino a 20 setti, no? Il Galaxy è un bel apparato, quanto ti passo, scusami. Il Galaxy è un bel apparato, però più di 200 non si può vendere, anche se costava 700.000 lire quando era nuovo. Sì. Ma dico, se tu lo vendi a 600 euro oggi, cioè tu lo vuoi, tu dica che cucciato quando è uscito. Ma infatti, no, c'è gente che è esagerata. E poi di questo Royce c'è poco mercato praticamente, perché non ce ne sono molti in giro, capito? Becco un attimo che va un attimino giù a fare bisogno, che... Vai, anzi, tranquillo, capito? sì, è così. Un altro, perché poi guardalo sul telefonino, ce lo puoi vedere, un pacco da voi, la riparazione, eccetera, eccetera, dice, rubito un altro, ma perché i breci, cazzo, incredibile. E poi il problema è che te lo devi comprare qua vicino, cazzo, a comprarlo lontano, cazzo, devi avere un pacco, Ma sì, ho pagato 20-25 euro per il trasporto. No, no, ma dico, comprarlo da fuori è a fortuna, perché cazzo se cosa che trovi te lo dà e magari c'ha problemi, vedi? Scusa, che avessi staccato le cuffie, stavo cercando il riduttore, che ne ci sente, che devo prendere un riduttore che vada meglio. Cioè, questo qui esce sempre fuori. Claudio, sì, sì. Claudio, no, non c'è. Vabbè, stavo dicendo del garage. Ho detto che magari quando lo trovi è solo a fortuna a trovarlo uno buono a posto, dai. Ma chi vuole abbattere di chi si rovende? Cioè, sicuramente c'hanno problemi, in verità non te ne dicono mai, capito? È meglio a dire, abbaita, io te lo vendo, però bisogna di cose ti abbaita. Tu mi vedi, allora non compare, no, un po' sicuro comparasse, fammi un sistema. Ma se mi arrivi un bacco è peggio che mai. Quello già è vero. Ma io l'ho comprato qua a Sassari da un amico e mi ha dato buono. L'unica cosa che aveva che era tarata un watt per usarlo con lineare. Io l'ho allentato, l'ho messo a 9 watt e va bene così. Sì, sì, sì, sì, sì. No, no, no, no. Guarda, io lo usavo con 7 watt, lo usavo con regolare, se l'avevo con 7 watt, la baciavo a 7 watt, boh, e continuavo a farvi dare così, e andavo un treno, la dice cosa, poi lo usavo con lo stesso, poi andavo a contare la dice, uguale, e niente, vabbè, quando sarà la vado già più avanti. Ma che cosa ci aveva? No, non lo so, io ho spento, è rimasto 10 anni spento, sono andato a accendere, trasmetteva più, usciva mi pare con 2 watt e mi teneva di basso lì, basso, com'è che c'aveva un finale, un condensatore, qualcosa a partita, e invece dovevo portare a riparare, ma non ho mai esce, non sai? Che la fresca di lì? Ma ancora non lo so, vabbè, da che arrivi tu stasera e domani con una baita da vedere cosa ha fatto, che mi ha detto no, non riceve, non questo, non quello, ma sì, sì. Ma ragazzi, ma ti no, è entrato il fumo, ma che cazzo vuoi mai entrato, se ci sacca 2 euro, ho entrato su, ma cosa vuoi dire, dai, cazzo mi sei dicendo di cazzo in tavola. Ma chi l'ha mandato a far cazzurro? No, a cosa, a Nappi. No, no, lo devo mandare a Falco Azzurro, quello lì è bravissimo, quello che si vede su internet, quello che dice, se vediamo quello su più fuori, quello che parla così. Va bene, è bravo quello. No, l'ha aggiustato anche Kevin, di tutto e di più aggiusta. È certo che se Miracoli non è fatto, però è molto bravo, io visto che aggiusta tutto, addirittura questo qua gli ha mandato un apparecchio, gli ha detto guarda io questo apparecchio mi si è bruciato, però io ho una cosa affettiva e lo voglio ottenere, non è che tu puoi fare qualcosa per aggiustarlo, è andato a aggiustarlo, non si poteva aggiustare, ha comprato un altro apparecchio, l'ha messo dentro a quello, ce l'ha adattato alle manopole, tutto quello che c'era quello lì. E poi che si usciva bene, sembrava originale, dentro non si vede nulla, capito? Ma magari è uno che sa battuto. Una persona magari che no, invece ma chi sono no, cosa cazzo, questo che fa i gatti che si fermati che fa dei video, che difende la cosa, sono tutte balle, sono tutte balle. Questo te lo posso dare sicuro, sicuro, sicuro, sono tutte balle. Lui la cosa che sa fare bene, te lo dico io cosa sa fare, compra le schede, le installa, buoni, l'ultimo lavoro, cazzardi, no, cose che poi fa qualsiasi, il buono è buono, bagno. Però a livello di riparazione proprio, secondo me non comprende nulla. Mandala a Falco Azzurro, quello lì è bravo. Hanno mandato diversi apparecchi riaggiustati, capito? Sì, sì, adesso vedo un po', guarda, vedo un po' che sono un po' cucciato, buono, domani provo a finire e vedo un po'. No, se no ti può abbassare di più, di più un altro. No, il mio lascio che a me mi piaceva questi apparecchi, io mi aggattavo pure un bebè, eccetera, mai avuto un problema, mai nulla, cioè la stessa vita cosa, ok, però se me l'hanno in vento, bro. Eh beh, certo che sì. Lo so, purtroppo si guastano anche loro, come ci guastiamo noi si guastano loro pure. Hey. Mm. non sarà che siamo di gente della Mattezza in Bassona, no? Di chi c'è un macco di catena? No, chi si dice che fa azzurro? Non lo so come ti chiama, ma spero no, chi ti nome cognomo, chi ti fa azzurro? Ma no, i gatti puoi. Guarda, ti filmati, ci sono su CB Baracchino, CB, eccetera, eccetera, sono filmati. No, i filmati ci sono a Buon Salvatore in Appi, si trova a Baidi, è pieno filmati, di tutti i tipi di rimanere, ti fai vedere, questo qua l'avete toccato, l'avete fatto, adesso proviamo, adesso perché voi è tutto saldato, questa scheda qua è tutto bruciato, ti devo rifare la scheda, quindi davvero ti fai vedere in ghiri, che saldelli, vedi, saldatori, che altro, vai, saldelettrodo, porca miseria, mia saldatura non ammacca, vabbè, comunque, ti fai vedere, certi che ti cosi, no? E la gente busi di convinta, ti dice, cazzo, cioè, fai vedere su quattro in diretta, che tu che fai? Ma la vedi che andrei provando, era parecchio visto, è un'altra, chi i cazzi di San Ivan, no, la pulita non è me, cazzo la va a sapere come ti va, maledetto cazzo, cioè, io ti ripeto, prima di andare via è stato mandato un messaggio, che ti aveva mandato un messaggio, cazzo, sì, che non c'è un problema, cazzo, da qui arriva in ghiri, mi salta buona cazzo cosa, no, perché se i finali costano 70 euro, cazzo statelli, i finali Lugax, ma cazzo si vede, ma cazzo, ma... Cazzo, ma lo sai come il tuo cazzo, che so che il tuo cazzo ha già appena. C'è sempre che ci giostrano. C'è uno che voleva 45 euro di spedizione. Non gli ho preso un apparecchio per quello, se no non l'avrei preso. 45 euro di spese di spedizione voleva. No, assolutamente no. Cioè, a me mi hanno fatto bagare, longa, cura... GLS si va a pagare, la non avete se vi pagate, la verità non la avete, se era stanno in 40 euro, lui mi sembra che ne ha pagato 20, lui dall'acqua, magari c'hanno delle agevolazioni, tutti quanti che cosi, però cazzo, in Oga noi siamo ben realizzati in tutti, porca miseria, anche se noi abbiamo avuto un centro assistenza eccetera, ti posi in macchina, ne chiedi un volto e puoi anche discutere, capito, te lo apre, il po' che ne capisci, te lo fai spiegare, quindi spiegami come si fece in Oga, no? Ecco, prendi la decisione, se buttarlo, se farlo, no? Oppure gli dici no, farlo bene, quello che ci vuole te lo metti. Anche io ho fatto di così, ma chi ci ha detto di no, che non li pazia, che alla fine, da voi però, alla fine alla fine, mi ha tornato a mandare un altro messaggio, no, ho detto, lo sai cos'è? Anche io ha detto sì, ma io voglio capire una cosa, no, io voglio capire una cosa, cioè, nei filmati voi fate vedere tutti gli antichi cose che avete riparato, che avete fatto, eccetera, eccetera, cazzo, ma ti si è succedendo a un Galaxy, se ti vada sul un Galaxy vuol dire che tu, da vedere, non hai preso proprio un cazzo, perché uno che è tecnico, che ha fatto tutte queste modifiche, tutti gli antichi cose, fare una riparazione su un apparecchio come quello lì, secondo me è una passeggiata, secondo me, poi, magari secondo lui, no, perché lo metteva in difficoltà, adesso ti dico di più, lui si è allontanato, ha fatto parlare all'altro, e lei due sotto volte si ti dirà, chiudi il bullaccio, dice, ma scusa un attimino, ma il problema dove è questo apparecchio qua? No, dice, ma perché, mi dice, non conviene, non conviene, ma te chi ti ha detto che non conviene, però lo decido io, anche io ti dico, ecco tu, ma tu non lo devi raccontare, racconta a te cosa ti ne ha fatto. Dice no, dice no niente, e ci compreso, solo per dire, ci sta fatto, ci ha mandato in giro, sarà meglio. Ma come cadena, se no dai qua, ci sono dei tipi, ci sono lì, però che non lo fanno per professione, lo fanno per hobby, sono molto bravi, più bravi di quelli che ti fanno pagare, però non lo fanno a tutti, capito, lo fanno solo a gente che conosco. Sì, ma non hai capito, guarda che io ci credo mica, c'è gente che è anche meglio, più brava di lui, io mi credo così, figlio. Cioè, non è nessuno, si è dimostrato un stronzo, ecco cosa si è dimostrato, anche tutti gli altri che si filmati, tutti gli altri che cose che fate vedere, sono tutte balle, o perlomeno lui è limitato e riesce a fare solo certe cose, basta. Ti ripeto, il Galaxy non ha niente fatto a sua, se te l'ho detto me l'hanno fatto alla via elettronica, sono andato 2 euro in giri, ti ha detto alla fine che finire un biglietto, mi ha detto vabbè andate a prendervi un caffè o una cosa, si l'ha farato correndo a giusto laboratorio, una bestia ci ha mandato il suo corso, quando sono continuato, siamo avuto una birretta, una cosa, e sono tornato ed era pronto, bello, perfetto, di lusso, senza nessun problema, ci ho dato e mi sono guardato, cazzo, ma siamo vedere, no, cazzo, tu mi fai, c'era lo stesso problema, uguale, non riuscivo. Magari sono problemi che c'è nel Galaxy. Anche il mio ha fatto così, era una resistenza solo, se costava 25 centesimi. Io ho pensato a un finale, dovevamo magari esatto che finale, eccetera. Però dall'altra ci ho detto, cazzo, probabile blu che sia una cosa, ma è andato fuori, che va via tutti quanti, questi problemi, che mi ha detto a me è entrato il fiume, ma da dopo è entrato il fiume, si è attaccato, l'ha detto, ma stai scherzando, si è attaccato, è attaccato sia dalla rete, dalla curata elettrica, dai batticaretti, che dall'antenna, perché l'antenna non ce l'avevo più, ho staccato tutto, cioè cosa dire? Cioè, ma le cose vuole vedere, dai, cazzo, vuoi capitare a cazzo con loro che ne ha dolci, ma io insomma, caccano pure che la giocate queste cose, no? Anche se poi li hai mollati, li hai fatti, però già li capisci, cioè se tu mi tieni o ogni ultimo di qualsiasi cosa, sempre a livello aglioglio, tipo baracchi del coso, qualcosa la sappiamo, ma non io, penso che la sappiamo tutti. Scappa, è entrato, qualcuno è entrato, chi voleva entrare? Tu, quello che mi stai dicendo tu. Però non usciva con pochi watt, i watt praticamente era portante, la prevevi usciva il portante, ma non mi sentivano di voce. Scappa, mi sono accorto che voleva entrare qualcuno. Buonasera a tutti. Buonasera Antonè. Salutone a tutti comunque. Buonasera anche a lui. Buonasera. Sì, non lo so perché ti ripeto, guarda, volevo provare a pasticciarlo, non l'ho fatto, ho detto vabbè, cosa che un po' mi tocca fare, eccetera, eccetera. Lo posso vedere, magari per uno che lo sa fare, non penso che sia un problema, ma anche se mi sembra una buca di volte che si ragiona, gli dico vabbè, lasciamo perdere, va. Ma a portatore se c'era un tecnico, io me lo ricordo che c'era un tecnico che faceva queste cose, che tu si era trasferito vicino al globo, è copiato? Ho capito già cosa stai dicendo. E infatti adesso, al tempo messo, forse ve lo mollo in giri, glielo faccio guardare. Lo faceva parecchi nautici, quindi non penso che sia un paracqua qua. Magari la conta. Non lo so, perché tutti i tecnici, c'era qualcuno a Sassari che è radio TV, però non lo so se fa baracchini. No, già gliel'ho portato, siamo anche amici, già gliel'ho portato tanti anni fa. E me l'aveva stemato un po' di cose lui, però poi via da buio tutta, se no vuoi che è roba nautica e tutta tanta questa cosa di noca. No, già è il momento, già è bravo già. Però c'è Antonio, quello che c'è via Sassa che diceva fuori della Ferrari di Belmonte. No, non lo so, guarda. No, non conosco nessuno che gli aggiusta Sassa. No, lì a Fusidorra. In via Sassari dove c'è il forno della Fede a fianco. No, ma penso che non li vuoi, sai, dopo le radio, le televisioni, così. No, mamma mi ha collegato anche dei microfoni una volta, che era in fretta, li ho portato a lui, mi ha collegato i microfoni e andavano bene. No, magari, ma non penso, non mi è mai capitato, la verità è. Non mi è mai capitato di chiedergli roba di apparecchiature così, non lo so proprio cosa dico. E lui va via tutt'altro, invece mi ha detto no, mi ha detto proprio lui va via a chi travagliava e impara un altro tecnico che fa delle roba a bocce, pure roba incusanti, non roba da 13. Poi era fuori, perché quando avevo chiesto, mi avevano detto che non c'era, che era fuori, se no magari gli avrei chiesto a lui. Ma avevamo un po' così, se lo si meglio, oppure se lo abbassi, lo assoltare nel bilionario, e me lo tengo a pensare, cambio questo. Sì, intanto devo sapere che tu vieni, non è che... Solo che dovresti prenderlo qua a Sassari, o a Volterdola, perché dove lo conosci. Che lo riscaccia vita soprattutto. Il problema è quello, lui mi ha contento di prendere l'apparecchio vecchio, congiurato, eccetera, basta che non sia educato, anche se no dopo non dici più. Sì, io questo rischio che ho preso sono stato fortunato, non c'è un grafico proprio perfetto, era di un amante di quei collezionisti. L'unica cosa che sapeva è che non c'aveva il microfono originale. E il microfono gliel'ha dato a tutti e l'ho messo amplificato. Tutto lì. Era un po' difficile da trovare i contatti perché aveva solo 3 contatti. E invece che 4, poi l'abbiamo scoperto, erano 3, e siamo stati tutta la sera ricercando e ce l'abbiamo fatta. No, il Galaxy ha collegato una pizzeria, era lui che andava solo, oh Paloma, quella pizzeria, paga cosa fa, collega un microfono a Galaxy, è semplice, 3 fili colleghi e ci andendo, qualsiasi un microfono, sempre te ne attaccato. No, io li ho attaccato 4, solo con le Super Sidekick l'ho attaccato 3, e invece con l'altro, col, come si chiama, con Salerta l'ho attaccato 4, avanti un po'. Ma che cappa, va. Oh, io ragazzi, mi sto addormentando, anche domani ho un burro da tagliare. Ciao, buonanotte a tutti, dai, mi ha fatto piacere chi sta chiacchierata. Buonanotte a tutti e a tutti, io mi addormento, non ce la faccio più. Ciao ciao. E io ciao, noi ci sentiamo, dai, buonanotte. Avanti, ce lo saluto. E io ciao, Anzu, buonanotte, ci sentiamo alle prossime, dai, domani, ciao ciao. Ciao Anzu, ci sentiamo domani. Ciao, parla, vi saluto anche io che parlo vedendo un po' il televisore, dai. Andare. Ci sentiamo, dai, buonanotte a tutti voi, anche agli ascoltumi, dai, ciao a tutti. Ehi, ciao, ciao, dai, dimmi che ci sentiamo domani, dai, io buro allora mi si chiede giù. Due cosette e domani ci accabbiamo, andrà bene, ciao, ciao, buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte a tutti, da parte mia. Non c'è problema. Va bene, aspetta un attimino, mi dia che sto capendo una cosa, poi mi dico se sei conveniente. Boh, mi sembra strano. Claudio sta disturbando, boh, mi sembra strano, però sai perché? Perché io qua adesso io ho provato, su tutti i canali così, io non ho fatto la puntina in più lungo. Cos'è che mi dia che non attacchi una cosa? Forse sì. Aspetta che guardo. Lascia vedere. Sì, qualcosa che non va, c'è. No, sto provando il Superstar. No, già che dovrebbe uscire di più, cosa ha detto, boh, cosa avevo accumulato io. No, stazionario non ce n'è, come uno. 5 watt. Ma penso 10 questo. Ma che cassetto, se l'ho buttato a confronto che su gatto di che va. Cazzo, l'ho buttato a casino, l'avevo preso. Quello lì è il gas mi ha ritornato di nordici, hanno riciato la posta. E lo so vicino. E tu mi hai detto che era molto bravo, no? Che domani è diciamo, che si mangia la palla, che si mangia, perché tu con quattro dice così, e in macchina vai, vai, capito? Aspetta che guarda un attimo la FM. Aspetta un attimo giù. Che provo a vedere se magari è così per Thank you. collegati assieme, e nel Galaxy ci vanno collegati tre fili, non quattro, capito? Non ne ha bisogno, perché quel microfono lì, quattro fili, gli servono per apparecchi che non hanno la ricezione, capito? Vanno collegati tutti. Invece su apparecchi che hanno la ricezione, uno si stacca. No, lo devi guardare tutto, guarda, prendi la portante e la massa, no? E la radio la trovi al volo poi, capito? Due li provi assieme, senza sbagliare, qua c'è la visione e lo vedi su, se tu pusci lo testa indietro, una volta che schiacci lì, te ne accorgi che sono i due, capito? Sì, volendo lo puoi anche tagliare, no, nel Galaxy si collegano solo tre fili, tre bus assicurati, ma anche in questo qua, in questo superstar che sono durati anni va, questo ha vari matrici collegamenti di rugoso e tre fili di collegare. Ne hai collegato quattro perché sicuramente è il tipo di microfono che va collegato e si prende la massa dall'apparecchio. Ciao G, sentiamo. No, vedi, vediamo, tu andai, vabbè, da non dovrai farsi nulla di complicato. Perché c'ha anche lo schema, lui davano lo schema dentro la scatola dell'MP4, se tu guardi la sera la cosa che ti dice come sono messi, se no te li puoi guardare adesso al computer, che sono i fili da collegare e poi lo fai un attimo. E già a letto, comunque la musica è guida, ti ho detto non lo so perché questo qua l'aveva comprato Claudio, no? E poi l'ho attaccato e non andava bene, il Ducasce dentro, l'antenna, i ghiri, non lo so così da condensatore, c'è la resistenza, la cosa, no, però non l'ho toccato, non ho aggiunto dei siti, di tanto si metti quando un problema con un Galaxy, ha detto vabbè, rubo i ghiri, mi rimando e vi devo sapere, questo è Salvatore Nappi, quello che fa tutte le registrazioni, le riparazioni, eccetera, eccetera, secondo me. Guarda, no parole, beh, no, c'è parole, adesso che accorsi mi ha male, in bagno, io dicevo, vai, io faccio buco casino, mi dice la stampa di un culo, cosa cazzo, la pietra domani a Brugax, se voglio dire cosa che sta fatto, dai, tu buco di cazzate. A chi? Magari devi cercare qualcuno che faccia baratie e cose così, che fa DHF di solito, questi cosi, non penso che si dedichi più di tanto, ti faccio vedere tutti i filmati che fa lui quando fa le riparazioni, le modifiche, i vatti, di luogo che adesso 30 watt da un baracchio di 4 watt, ma vai, lasciami le balle bucciando, cazzo, fa un raggio, fa delle vecchie registrazioni, un cazzo, di cose che fa di un po' tutti, no, a trappa in buoni, chi tutti ha avuto i figli, ma delle cose, io la giudicio, ha detto che non conveniva con questa Galaxy perché è entrato il fulmine, ha bruciato tutto, il trasformatore, questo, ma cosa stai dicendo? La cassa di te, non devo capire se manco fuori. C'è niente su buio prima di andare via. Dai, lascia perdere. Non serve mai quella cappa centrale. Se non riesci a contare su lui guarda un resto. Ma scherzando stai. Non usciva. Invece riusciva con 10 watt usciva con 2 watt, tutto lì. Dicendo che non lo so, domani lo accendo. A chi mi vuole stare un po' tranquillo, se no, allora accendo mi viene di più pure anche io, niente di là. Ma anche davvero siamo a buffare, non sa come davvero siamo grabaci, diciamo. Già me ne fai le palle di su, figurati, cosa cazzo c'è? E qua lascia, vabbè, lasciamo applicare. Sono tutte balle, tutto, chi lo dice che fa rivedere quei filmati lì che lui mette, salda, fa, assolutamente non è vero. Io te lo posso assicurare. Ho fatto male una cosa, qua, ero a Costa da San Vito, che dice cosa cazzo, 90 euro, ma non vi dopo. E ripeti, magna di che tu cazzo da parecchi, eccetera, eccetera. Poi mi ha detto che era trovata a posto, invece a posto non proprio più un cazzo. Vabbè, comunque non me ne frega niente, già gliela faccio adesso la pubblicità. Non c'è problema. Poi vediamo. so quanti si guardi, cazzo, fatti queste cose, ho capito. Non è roba che sai fare, dito, parla. Non è roba che mi compete, mica mi offende. Io mando la slogu. Ciò sto dicendo, guarda, Boni e Facebook, a me da sono fatto le lampi, a me da che mi sono sticanti di cose che sta mettendo in diretta lui quando sta facendo le riparazioni. Capito, papigliati bauguri più bello. Brutto passaggio, eh? Cosa hai chiesto di te? Non è poco che sono usati. No, mi rompe le balle tutte le bugie. Ricorda? Tu a me da, perché va bene tutte le riparazioni in diretta. Manda un messaggio a Claudio, mi che te lo dice com'è. Allora, tu guarda un pochino che parli, il gas, guarda il gas, 48, ti fate poco modifichi, chiedo, mi dà, guarda dove fu un cazzo, un compagno di scheria, pronto, di stare, e basta, ma bravo, ma a me, ti va bene tutto il video, tutte le cose che fate, ma non è vero nulla. Aspetta, non vanno in opera. No, non vanno oltre 100%, bisogna cambiare tutto il fiume, è un nuovo gatto. E chissà che fare il cavolo da fare che hanno impostato questo. Ancora? Strano. Ho il filo? Ma aveva, il manico non aveva. No, il filo allora è cazzo. Lo sai che forse bisogna cambiare il cazzo del filo. Affanna quei cazzo. No, no, sempre il danno. E va bene un'altra cosa, e va bene un'altra cosa. Vabbè, comunque non l'ha tenuta. No, quello là, il 300, quando lo metti, appena che lo attacchi va subito importante, perché non lo so se colui era pronto forse da un Milan, forse da Gianni, non me ne metto bada, è un palazzo comunque da Gianni, chissà di bada che cosa. Ma non schiaccio bene qua qui, o qua, vedete? Forse si va. E adesso? Il tasto, lo vedi, il tasto. E adesso il gatto è indietro, porca miseria. Ragazzi, quando rimane di fermi queste cose è un casino. Bisogna che il gatto è indietro, ovviamente la baido. Tanto questi sono alla mella dentro, già è facile da fare. Ha mattato i zeri di quel microfono già. No, che già me li facevo già, figurati. L'Africa, la mela dentro vuole tutto pulito. E tra l'altro, grazie a troppi anni, per un bel grazie, secondo me ti fisso. Allora sono qui che c'è una bella roba, magari quando lo schiaccio tutto, è probabile che vada la lamella a toccare sullo sporco, allora lo innesca. Ma chi si vuole di buona becca, in caso di quell'arco, gli ribassa subito. No, domani a Baidu si va giù il tempo, un attimino il 300 provo a attaccare, va bene. Anzi, ti devo dire che voglio provare ad andare più lungaretto a vedere, a provarlo con l'altro, a vedere con la carta, a vedere come esce il 300. Cazzo, la carta con lei, insomma, dai. Guarda, non ha giubarao la definita del 300, non ha giubarao, guarda. No, ma non finisce così, no, aspetta che prima guardo quello lì, poi faccio un po' di pubblicità in quelle bande là, io faccio la pubblicità. Gnomo, cognomo, tutto tanto, tutto, l'unico gatto di regno, gli amici, parolacci. Non mi hai capito mica, io comprendo tutto comprendo, io comprendo tutto, non ve ne ho problemi, no, non mi discutivo, ne vengo. Perché io vivo tanta bazzetta, io non so cosa sono governi che si ricatto, avvaggio 4 macchine, sono quello che fa la base, quello che fa la base, cose che non ho mai fatto, eccetera, eccetera. Però questi bazzetti, è già quello buttare la termine, non mi vedo noi, poi, oddio, si può pure imbagliare. Se non imbaglio, mi vedo pure. Se sono delle cose dove non ci arrivo, io lo dico, guarda, sono attrezzato, ma lo sai cosa, non è basta, tu mi hai detto, ma vengo, non mi va a toccare, a casino non ci ho preso. Questi qua invece cosa fanno? Si fanno filmare, facendo vedere a tutti che riescono a fare le cose grazie straordinarie, le cose grazie che vanno rimanere a bocca a becca, con saldature, con scheri, con ghiaccio, con guidata, mettendo i bottenzi, balle, spose, tanti cose, poi ti fanno delle registrazioni incredibili, no? E poi gli porti una parte del merda e non riesci a ripararla, ma dimmelo, ma sì, è vero bufonese, ma vai ritira di gatto e qui ti sarebbe un colpo di te gatto, cioè, ma che cazzo di personaggio è, se lo so bene? Non vale a nulla, cioè, quando abbiamo parlato, che mi ha detto queste cose qua, Emiliano, me ne è sceso dalle balle, ti dice a parecchio di noga, mi ha detto, no, non funziona la smitta, non funziona la ghiaccio, non funziona la ghiaccio, non funziona la ghiaccio, cazzo, mi ha girato di gatto, stavano a funzionare i bandi laterali, no? Anche lui mi ha detto, no, vedi, che problema di cosa, ma scusa, non bisogna confermarlo, non bisogna confermarlo, nulla praticamente. Cioè, non si è mai esagerato, non è fatto la esagerata da Berito, magari grazie a una resistenza che mi dà a Berito a mettere il BL, perché se non fa squantato lì, dovevo toccare lì per fare essere lo smith, se mi vedete non riceverla, quindi toccando lì, c'è la massa con l'antenna e la cosa è via, ma era voluto sapere da me cosa c'aveva, ma se tu la accendi perché non la vedi, non te ne accorgi, c'hai le attrezzature lì, no? Tu la metti che c'è le attrezzature, le metti lì, e si appoggia. Quindi abbiamo Gesù telefonato, ha visto, mi ha giocato, eccetera. L'ha provato, non c'è cosa ha fatto, mi ha mandato il filmato, mi ha mandato il filmato che l'apparecchio era tutto manomesso, rovinato, col cacciavite, con lì, lui non mi piace, ma cosa cazzo di vedere? Capito? Si chiamava di virus, no, e duro non gli è venuta. Si fa bene, si mise i vendi di Russia, ormai i giri a corsa, perché lui e loro giocano su quello, capito? E lui dice, dato che c'è il peso, un altro di più di giorno, ma poi su quella piccina, Russi si racconta e si dice, e io gli dico, vabbè, a corsa, ma riparalo però, l'anno ha bevuto che cosa, non da 90, cioè, mi rompe anche le balle, capito? Magari ci sta un errore, una cosa, però, capito, un talento di cosa gli fai dire tu, non è vero nunca, sono tutte balle, mia, qua, credi, sono tutte balle. Perché il gas è anche semplice da aggiustare, se tu apri, non lo dopo, il barattino ormai è suonato compatto, suonato compenso, le tenghi. Cazzo, c'è spazio, c'è tutto, poi ti ripeto, quando c'è le attrezzature oggi, questi lavori qua li fai un altro, a prescindere, capito? E gli ho fatto vedere i fendi baracchini normali, poi a questa ragazza di rosso mi sembra che li ha aggiustato, cosa che si un Galaxy, se poi è tutto un casino, se poi ha fatto la scheda, una bugadurizia, una bugadurizia, poi gli ha messo due finali, cazzo, 30 watt, 32 watt, circa. Hai capito? Io gli ho buttato il tizio a lui, che mi ha detto la 255, non si ripiega. Allora sono stronzo, scusa, Infatti tu mi porti una macchina che fa 200, te la ritorno che fa 100, non sei contento? Certo, lui mi dice, no, non ti preoccupare, rimandamelo, non ho già un capo, vabbè, non ho già questo un capo, tieni presente che lo stavo comprando nuovo, 250 euro, punto e basta, lui ha già rimessi e va giù per rovesci, lo stavo comprando nuovo in via, si pensa a 360, guarda quello che c'avevo, è una gannonata, di robusto sulla, funziona bene alla grande, no? Nulla di complicato, un malacchino con più canali, eccetera, eccetera, eccetera. E va benissimo. Quindi, cioè la fine, l'errore l'ho giocato, a chi oggi insisti due ho fatto comprarmi uno. Poi vabbè, è successa questa cosa qua. E ok, si libera da tutto, ma non si chiuderà più per me, più o meno, non penso più, salvo di non più una cattacola da una KF, ma con le malattie assolutamente, li ho sempre comprati nuovi e non ho mai avuto problemi. Ti ripeto, domani mi tolgo dalla scatola, quello che c'è ti faccio vedere, nuovo, mai acceso lì, no, come l'ho comprato è rimasto, mai acceso, mai nulla. E qua la 28 funziona bene, no? In macchina di un rumore ma non stereo, non pare neanche un malattino. Non ancora, sempre difendere.